English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera parleremo del suono che in questo periodo amiamo moltissimo. Siamo tutti dei grandi fan della vuvuzela. No, vabbè, lo sto scherzando, non tutti amano questo strumento. Ma cerchiamo di capire come mai è così amato dai sudafricani, perché in questi giorni di mondiali di calcio lo stiamo ascoltando in ogni partita e per 90 minuti più recupero, senza smettere mai. Hanno cercato di chiarire un po' cos'è questa vuvuzela alcuni servizi stranieri, i telegiornali stranieri che abbiamo recuperato un po' in giro per la rete. Il primo servizio che sentiamo insieme viene da ITN. Vuvuzela with me. It is a dance, isn't it? It's actually this, or rather these, plastic trumpets which allegedly make a noise like a herd of charging elephants. They're everywhere. Finally, the Brazilian samba bands have a real challenger. If England face the home side, the Great Escape brass band will have to do battle with the mighty Vuvuzela. Many South Africans believe it could be their secret weapon. Local fans never missing an opportunity to put one to the lips and give it a blow for Bafana Bafana. In the opening game, South Africa's Vuvuzela trumping Mexico's wave in a way its footballers didn't manage to do. Tens of thousands of fans blasted out tunes on their plastic trumpets, the din continuing throughout the 90-plus minutes. The only let-up was during the two national anthems before the match. Comincia con una citazione molto buffa questo servizio. Voulez-vous vuvuzela with me? È un misto tra inglese, francese e il nome di questo strumento sudafricano, ma soprattutto una citazione di una canzone molto molto conosciuta. Sì, perché tutti cercano, visto che non si riesce a liberarsi di questi vuvuzela, di farseli diventare simpatici, e allora i cronisti ce la mettono tutta, e quindi questo inglese col suo humor inglese dice: ma sì, it's a dance, isn't it? Possiamo prenderla, facciamo finta che sia una danza, che sia un ballo, perché in realtà poi allegedly vuol dire si dice che, si sostiene che, it makes a noise like a herd of charging elephants, quindi non esattamente un dance, un ballo, ma un herd, cioè una mandria di charging elephants, di elefanti letteralmente alla carica. Charge naturalmente sappiamo che è anche la carica, no? Il charger è il caricabatterie, e quindi charging elephants sono elefanti alla carica. Questo sarebbe, secondo la tradizione sudafricana, il significato di queste simpatiche trombette. Simpatiche trombette che addirittura sono più forti di un altro dei ritmi tipici da stadio, che è quello della samba. La samba proprio non ce la può fare contro la vuvuzela, è più forte la vuvuzela. E quindi il real challenger è una battle with the mighty vuvuzela. Mighty, naturalmente, might è potere, mighty potenti. Queste vuvuzele, in effetti, vedendole, qui al Sole 24 Ore abbiamo una manifestazione e ne abbiamo alcune qui per, in occasione dei mondiali, vedendole non sembra che possano produrre questo fastidiosissimo suono, ma forse è perché appunto tante fanno la forza, quando ci si mettono tutti sono una mandria di vuvuzela più che di elefanti. E infatti they could be a secret weapon, potrebbero essere un'arma segreta per i Bafana Bafana, per la squadra del Sudafrica. Questo è un po' da vedere, però insomma è sicuramente l'arma segreta che non ci si aspettava, appunto secret weapon è le armi, weapon of mass destruction per esempio sono le armi nucleari, e questo invece sarebbe il loro arma segreta, e naturalmente tutti i sudafricani, che sono giustamente in maggioranza negli stadi, they never miss an opportunity to put one to the lips, non perdono l'occasione, letteralmente come diciamo in italiano, di mettersene put one to the lips, cioè di mettersene uno sulle labbra e fare questo suono per la loro squadra, i famosi Bafana Bafana. Questo servizio parlava della prima partita, cioè quella con il Messico, è stato registrato evidentemente prima della partita con l'Uruguay. Cosa è successo in questa partita con il Messico? Insomma, dobbiamo dircelo, c'è tanto entusiasmo per i Bafana Bafana, però non sono una grandissima squadra, però forse grazie a Vuvuzela che ha stordito completamente i messicani, what the footballers didn't manage to do, perché la partita non è poi stata sto granché, quindi quello che non sono riusciti a fare i giocatori sul campo, to manage to do something vuol dire, sappiamo naturalmente la parola famosissima, manager, colui che gestisce, quindi to manage vuol dire riuscire a fare qualcosa, quello che non sono riusciti a fare i giocatori sul campo, forse l'hanno fatto le nostre simpatiche trumpets, horns, chiamiamole come volete, la Vuvuzela, dagli spalti, e dei blasted the blasted the tunes, quindi hanno fatto esplodere questi suoni, e forse hanno anche dato un po' la testa agli avversari, e così alla fine il Sudafrica ce l'ha fatta. Questo servizio parlava della prima partita, cioè quella con il Messico, è stato registrato evidentemente prima della partita con l'Uruguay. un suono continuato per 90 minuti con una sola eccezione, ovviamente. Quindi continuing for the 90 plus minute, 90 plus è un, noi diciamo 90 e rotti, sappiamo che ci sono sempre i recuperi, quindi non sono mai esattamente 90 minuti, quindi 90 plus minute of the game. Piccola pausa per i two national anthems. Anthem è l'inno nazionale, i due inni nazionali naturalmente, before the match. Ecco lì, guarda, finora i Vuvuzela non li abbiamo sentiti. Ci si interroga sul fascino di questo strano strumento musicale, se uno strumento musicale è, in qualunque parte del mondo. Lo fa ad esempio anche il corrispondente di Al Jazeera. If you're in South Africa for the World Cup, you can't escape the Vuvuzela. On the streets, in the stadiums, and here in the Soweto Township Fan Fest for the host's opening match against Mexico. They are everywhere. The Vuvuzela is, you need a lot of air to play it. No, it's hard to play it, but then it's for us, we're used to it. Sounding rather like a wild elephant, the Vuvuzela can be played by the young and by the old, used as a dance partner. And improperly used, it can damage your hearing. At World Cup 2010, it has become a symbol of support for the national team, the Bafana Bafana. Eccola qua ancora una volta, la Vuvuzela, you can't escape. Non puoi proprio sfuggire se sei in Sudafrica, dice il giornalista di Al Jazeera. Ma la cosa divertente è che lui ha intervistato i suonatori di Vuvuzela a Soweto e gli hanno spiegato che insomma ci vuole un certo talento per suonare questo strumento, non ci si può improvvisare suonatore di Vuvuzela. Sì, perché sembrerebbe appunto che bastasse suonare, no? Come diceva nel pezzo prima, give it a blow, dare un grande soffio dentro a questa trombetta. In realtà nella durante la Soweto Township Fest, questo festival che si svolge a Soweto, gli dicono, uno cerca di convincerlo che you need a lot of air to play it, cioè devi avere una grande potenza polmonare, it's hard to play it, è molto difficile. Io non ho provato, però effettivamente sicuramente ci vuole una grande capienza e forza polmonare, e poi non bisogna annoiarsi perché il movimento è quello, cioè non ci sono tasti da premere o nuote o note da suonare, bisogna soffiare, basta. E poi mi piace molto quest'area di questo signore che dice we are you. Noi siamo abituati, però insomma è molto difficile. E anche qui la similitudine degli elefanti. A me sembra veramente un alveare, sempre l'alveare impazzito di sottofondo. Invece cercano appunto di spiegarci che è un wild elephant. Prima ci dicevano herd of charging elephants, quindi addirittura sicuramente una mandria, sicuramente se ci stanno caricando sono selvaggi. Quindi wild elephant appunto dovrebbe essere questo il suono. Sempre secondo i signori di Soweto, it can be played by the young and by the old, used as a dance partner. Non l'ho visto nel video di Shakira, Waka Waka, però forse non lo so se balla con la vuvuzela come dance partner, come compagno di danza, e però lo confessa il giornalista, può anche creare dei danni questo suono continuo. Quindi if improperly used, quindi se usato impropriamente, detto esattamente come facciamo noi in italiano, it can damage your hearing, quindi può veramente danneggiare il tuo udito. Però sta di fatto che at the World Cup, e qui notiamo come dice, non dice 2010, anche se avrebbe potuto dire 2010 sarebbe corretto, dice 2010, per quel modo inglese americano che si ha di spezzare gli anni fatti da quattro cifre in due da due, quindi per esempio, non so, 1988, 1988, in questo caso 2010, 2010. Bella questa vuvuzela, difficile da suonare, ma come si suona la vuvuzela? Abbiamo trovato addirittura un video, how to play, come si fa a suonare la vuvuzela, c'è proprio un tutorial in rete, un po' scherzoso, non ne ascoltiamo qualche secondo, è tratto da goal.com. This is a vuvuzela, it's the horn that South African soccer fans blow for 90 minutes every single game. Here at the 2009 Confederations Cup though, it's caused some controversy. Television audiences around the world have complained about the vuvuzela, calling it irritating and too loud. FIFA has hinted they may ban it at next year's World Cup. But maybe if they learned how to play a vuvuzela, they would realize that to South Africans, it's not just a noisemaker, it's a musical instrument. Okay, what you do with this to blow this vuvuzela? You do this. This sound, when it comes in here, it makes an echo. And then, it's simple like this, you see. But when I say, that's how it goes. Ce l'ha fatto sentire, non devi fare in quel modo lì ma in quel modo là, lo sa lui qual è la differenza, però si sente proprio la differenza del suono. Evidentemente ci vuole questa capacità di suonare, addirittura questa lot of air, questa capacità polmonare di cui parlava un altro supporter dei Bafana Bafana. Scherzi a parte, davvero cerchiamo di capire il significato e il fascino per questo strumento, che è davvero uno strumento musicale, ci dicono. Sì, e la cosa divertente è che questo video era stato girato l'anno scorso, no? Durante la Confederations Cup, e c'era stato It's caused some controversy, perché appunto questo horn, questo corno, che è un musical instrument, se te lo spiegano, se cercano di convincerti, per noi sembra ancora soltanto appunto un corno, e invece era le television audiences around the world had complained, avevano già mostrato qualche lamentela, ma queste lamentele sono cadute nel vuoto, come può dimostrare il fatto che Vuvuzela overall in questa World Cup 2010. E anche in quell'occasione, come adesso, si sono lamentati i telespettatori in tutto il mondo. Sì, probabilmente più che altro appunto sono gli executives, no, delle televisioni, che avevano capito che a lungo andare questa cosa dei telespettatori avrebbe dato fastidio, perché può essere irritating, lo dicevamo prima, a volte può sembrare un po' uno sciame impazzito, o too loud. E allora la FIFA has hinted, aveva dato dei segnali, to hint, sappiamo che è il suggerimento, la traccia, aveva dato dei segnali, probabilmente molto timidi, that it may ban the Vuvuzela at the next World Cup. Questo aveva detto l'anno scorso durante la Confederations Cup. Evidentemente questi tentativi sono caduti completamente nel vuoto, e quindi siamo qui a cercare di capire how to play the Vuvuzela e why for South Africans it's so important and it's not a noise maker. Cioè, questo è l'errore che non dobbiamo fare, perché si offenderebbero sicuramente, pensare che sia semplicemente qualcosa che fa rumore, un noise maker. FIFA has hinted that it may ban it at next year World Cup, dicevamo, quindi la FIFA avrebbe potuto bandirla, possiamo sì. Tradurre così il verbo to ban, proprio bandirla. Evidentemente ci hanno provato, hanno capito che no, che era una delle cose su cui le organizzazioni del World Cup 2010 non voleva negoziare, e quindi dobbiamo prendercelo, tenercelo come un musical instrument, not a noise maker, e vedere questi giovani sudafricani, giovani e non giovani, che ci dicono what you do this, you do that, you blow it like this and you make this wonderful elephant noise. Insomma, questi ragazzi sudafricani ci insegnano come si fa e come non si fa. Noi abbiamo trovato questo tutorial in rete, se qualcuno avesse una vuvuzela sotto mano e volesse provare a suonarla, i ragazzi sudafricani nei vari tutorial in rete insegnano perfettamente come si suona questo difficilissimo strumento musicale, not just noise a noise maker, l'abbiamo capito, non è un attrezzo per fare rumore, no, è un vero strumento musicale. Insomma, ci accompagnerà in tutti questi mondiali di calcio, noi abbiamo cercato di scherzarci un po' su, però il nostro tempo radiofonico anche per questo sabato si conclude qui. Io devo ricordarvi il nostro appuntamento invece in edicola, come sempre, con English 24, ringraziare Valeria Bernardi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli un saluto e alla prossima puntata.